Benvenuti su Nerdcast, podcast di videogames, Giappone, J-Rock, rock and roll in generale e tante altre cose. Quello che sto per presentare è l'episodio 4. Questa introduzione era dovuta al fatto che comunque Nerdcast adesso cambierà stile quasi radicalmente rispetto agli ultimi tre episodi. E prima di lasciarvi alla sigla, che è abbastanza lunghetta, almeno per questo primo episodio in cui la utilizzo, volevo ringraziare tutti quelli che avevano downloadato le prime tre puntate di Nerdcast e esortarvi a continuare a seguirmi, sperando bisettimanalmente, ecco. Detto questo, iniziamo subito con la sigla, che, come molti noteranno, è totalmente diversa. E noi ci sentiamo dopo. Ciao ciao! Credo sia dovuto alla scheda audio del mio computer abbastanza di... oppure al microfono. E siccome ho dovuto fare davvero un biliardo di ziliardo di cose dall'ultimo episodio, non mi è venuto proprio da pensarci. Quindi credo e spero che il prossimo episodio sarà con un microfono nuovo e senza questo ronzio. E mi dispiace perché, insomma, lo so quanto fastidioso possa essere, ma purtroppo non dipende da me. Dunque, prima di iniziare volevo dire semplicemente due cose. La prima è ringraziare Julien di Rockhouse Podcast, perché oltre a essere il primo dei podcaster, diciamo, empirici che mi ha contattato, mi ha anche citato nel suo ultimo episodio di Rockhouse Podcast, episodio numero 18, sì, e lo ringrazio davvero tantissimo, perché questo significa davvero molto. E comunque spero non se la prenda troppo per il fatto che non sono riuscito ad eliminare il ronzio, ma ecco, insomma, sono ancora al quarto episodio, anche se comunque un quarto episodio un podcaster dovrebbe essere un po' più preparato, ma nonostante, cioè, dato la mia giovine età, un po' di tempo potete anche darmelo, insomma. Queste sono scuse che non reggono, però ecco, un modo per giustificarmi dovevo pure trovarlo. La seconda cosa è che, insomma, andando a vedere i download, le statistiche di download dei scorsi episodi, devo dire che sono rimasto incredibilmente sorpreso perché, siamo arrivati, soprattutto nell'ultimo periodo, sono arrivato ad avere più o meno 10 download al giorno, non per, in un certo senso, dire quanto successo, tra virgolette, stia facendo Nerdcast, però, insomma, questo non me lo sarei mai aspettato perché andando a vedere, insomma, i vari download, i siti di riferimento del download, eccetera, insomma, sono rimasto piacevolmente sorpreso. È una cosa che mi ha un pochino fatto sentire colpevole, ma alla fine non è propriamente colpa mia. E vedere anche dei download provenienti da paesi stranieri, non dall'Italia, soprattutto per esempio in Cina e in America. Io non so come scusarmi perché sicuramente, insomma, chi avrà scaricato Nerdcast o dall'America o dalla Cina o da qualche altra parte avrà pensato che fosse come minimo di lingua inglese o della loro lingua, ma no, sono trovati un italiano a parlare e mi dispiace, insomma, non è colpa mia. Io comunque nella descrizione degli episodi scrivo in italiano, almeno spero, quindi non so proprio che farci, non so proprio che farne. Comunque spero di comunque spero di essere, insomma, stato d'aiuto a questi cinesi, a questi americani che comunque cercano sempre podcast nuovi sui videogiochi. E loro ne hanno sicuramente molto più di noi, essendo comunque la Cina e l'America, i due paesi con più tasso di nerd. Anche il Giappone, ovviamente, con più tasso di nerd praticamente globale. Comunque, dopo aver parlato e introdotto finalmente l'inizio di questa nuova stagione anche per me di Nerdcast, che spero di portare avanti con regolarità, passiamo alla prima canzone di oggi, una canzone che proviene da Giamendo. Questi sono i Diablo Swing Orchestra, ecco, orchestra. Questa si chiama Poetic Pitbull Revolutions, sia il nome sia il nome della band che della canzone sono abbastanza lunghi, quindi li vedrete poi nella descrizione del video finale, e questa è la canzone. Thank you. Chicago Swing Orchestra con Poetic Pitbull Revolutions. Allora, bentornati su Nerdcast. Per chi avrà ascoltato già i primi tre episodi sa che insomma, Nerdcast si struttura in varie parti che neanche io saprei ben dire, lo so. Comunque, le due principali parlano appunto, trattano appunto una di videogiochi in modo diverso da quello che fanno praticamente i podcast di videogiochi, come per esempio quello di Multiplayer o di Ringcast, essendo anch'io da solo alla conduzione di Nerdcast, mentre l'altra branca, diciamo, parla invece di Giappone, dove io parlo di Giappone, essendo io un appassionato, grandissimo appassionato dell'isoletta. Ok, per quanto riguarda la sezione giochi, mi è venuto in mente di parlare di una cosa che praticamente tutti quanti abbiamo sotto gli occhi quando andiamo a, non lo so, comprare o comunque studiamo la custodia di un gioco, ma avendo così chiara questa cosa sotto gli occhi non riusciamo neanche a degnarla di uno sguardo il più delle volte, e sto parlando della classificazione PEGI o PEGI, che sarebbe praticamente la diciamo la classificazione per l'etichetta, ecco, che viene messa praticamente sulle copertine di ogni gioco per segnalare a quale età è adatta quel gioco o comunque che tipo di pericolo può contenere quel gioco. Io, essendo appunto un gamer, non ci faccio quasi mai caso, anche perché che ne so, da quindicenne, non sono quindicenne, ma da quindicenne compravo giochi di vietato ai minori di 18 anni, per esempio, che ne so, il primo che viene in mente è GTA Grand Theft Auto, senza pensarci, e comunque i rivenditori, il più delle volte, anzi praticamente sempre, non ci badavano e me lo vendevano normalmente. Soprattutto non facevo assolutamente caso al fatto che comunque c'erano anche altre etichette oltre a quella indicativa degli anni, che praticamente si simboleggiano tutti i pericoli che non sono sicuramente consigliabili né ad un bambino di 3 anni né a un ragazzo di 18 anni. Proprio per questo, insomma, la cosa mi ha incuriosito, sono andato sul sito della PEGI, che è www.pegi.info, che è un sito internazionale. PEGI comunque sta per Pan European Game Information, e sono andato a vedere, insomma, le etichette, un po' che cosa dice a proposito, e anche se comunque sapevo dell'esistenza della PEGI, che è un diciamo un pochino dappertutto quando si entra in un reparto di videogiochi, comunque non sapevo delle cose che sono venuto a scoprire, non totalmente eclatanti, ma che comunque mi fanno pensare che praticamente il videogamer tipo non presta attenzione a quello che potrebbe anche disturbarlo. Ma questo lo so perché, parlando anche con i miei altri amici nerd, anche più nerd di me, nessuno praticamente si è mai interessato a dei simboli del genere. Dunque, appunto, dal sito della PEGI si può vedere che ci sono 5 tipi di restrizioni per quanto riguarda l'età, e ben 8 restrizioni per quanto riguarda, diciamo 7, poi vi dico anche perché 7 e non 8, per quanto riguarda invece i contenuti del gioco. Le cinque etichette dell'età sono dai 3 anni e più, o meno credo, dai 7 anni, dai 12, 16 e 18, quindi sono 5. Quelli dell'etichetta che portano praticamente PEGI di con 3 anni o meno, credo, no, con 3 anni o più, scusate, con 3 anni o più, sono praticamente, come dice il sito, quei giochi che raffigurano cartoni animati, come per esempio Bugs Bunny, Tom e Jerry, E appunto il bambino non è portato ad associare i personaggi a personaggi veri, perché comunque un bambino di 3 anni è capace di capire che quelli che vede non sono persone reali, non sono personaggi reali, e quindi anche la violenza tra cartoni animati va bene fino ai 3 anni. Dai 7 anni in su, invece, sono i giochi che contengono scene o rumori che potrebbero spaventare. Non lo so che cosa possa essere. Il sito della PEGI dice che possono essere permesse pure scene di nudo parziale, ma non, ma non in un contesto sessuale. Sto iniziando a preoccuparmi. Quindi non lo so, scene o rumori che potrebbero spaventare. Quindi mi viene da pensare, che ne so, a Resident Evil, Silent Hill, cose del genere. E la cosa da notare è che sia per l'etichetta da 3 che da 7 anni lo sfondo praticamente è in verde, come per dire che è tutto salvo. Lo sfondo invece diventa giallo, cioè come qualcosa che è un pericolo imminente quando si parla dell'etichetta dai 12 anni in su e dai 16 anni in su. Dai 12 anni in su sono i videogiochi che mostrano violenza leggermente più esplicita, rivolta a personaggi di fantasia. E non esplicita, rivolta a personaggi all'aspetto umano, non so, violenza non esplicita, boh. Le espressioni volgari non devono essere forti e non devono contenere imprecazioni a sfondo. Praticamente quella da 12 vale, da quel che ho capito, per i giochi fantasy, che praticamente hanno una storia abbastanza crudele. Quindi in cui c'è comunque violenza contro i stessi personaggi di fantasia. Ma dipende in ogni caso dal gioco, io dico, perché Final Fantasy, che ovviamente è un gioco, sì, è un RPG comunque a sfondo fantasy, contiene talvolta, più delle volte, dei personaggi umani, e quindi non lo so, è una regola abbastanza idiota, cioè dovrebbero fare personaggi di fantasia e anche dall'aspetto umano. Per quanto riguarda invece l'etichetta PEGI dai 16 anni in su, si applica invece quando c'è la violenza o anche l'attività sessuale, che descrive un livello simile a quello presente nella vita reale. E questo mi sembra abbastanza idiota, perché comunque un'etichetta da 16 in questo senso dovrebbe essere più che altro un'etichetta da 18 anni in su. Sì, qua dice che i ragazzi dovrebbero gestire un linguaggio più scurrile, però insomma, questo a me sembra più che altro una classificazione da 18 anni in su. L'etichetta da 18 invece, che è l'unica etichetta con lo sfondo rosso per dire alto la pericolo, attenzione, se compri questo sei un manigoldo, è una classificazione per soli adulti, appunto, da 18 e su. Quando la violenza è molto difficile da definire, in quanto può spesso essere molto soggettiva. Boh, vabbè, quando è violenza, in praticamente. In termini generali la si può classificare come una rappresentazione di un tipo di violenza che farebbe provare a chi la vede un sentimento di repulsione. Vabbè, non lo so. Può anche darsi, cioè ovviamente poi dipende dalla soggettività. La cosa più interessante invece di tutto questo è che vi sono 8 descrittori all'interno, cioè sul retro della confezione di ogni gioco, che io non ho mai, non ho mai praticamente notato, non mi ci sono mai soffermato. Come dicevo prima, erano 8, ma in realtà sono 7, perché non, cioè sì, sono, diciamo, 7 che descrivono le caratteristiche negative del gioco, e una invece che costituisce la caratteristica positiva. Le 7 caratteristiche negative degli 8 descrittori sono: linguaggio scurrile, che è rappresentato da una, diciamo, una nuvoletta simile a quella dei fumetti, discriminazione. Sì, vabbè, è il gioco che contiene scemi di discriminazione, dove ci sono, non ho capito perché, 3 ragazzi, droghe, la terza, che vuol dire appunto che il gioco, il riferimento fa uso di, cioè no, non è che il gioco fa uso di droghe, però c'è un uso di droghe all'interno del gioco, c'è una siringa bella grande come, come descrittore. Poi la quarta è paura e c'è un ragno. Poi la quinta è gioco d'azzardo e ci sono due dadi e non ho capito cosa ci sia di sbagliato, insomma, in un gioco che mostra il gioco d'azzardo, non lo so. È una malattia? Sì, probabilmente è una malattia, però, insomma, a descriverla anche dietro ad un gioco, io probabilmente questo gioco d'azzardo, questo descrittore del gioco d'azzardo non l'ho mai visto. Poi c'è sesso, gioco che contiene scene di nudo. C'è violenza, che è il settimo, dove c'è un bel pugno, grande resistenza. E poi l'ultimo, che non è un aspetto negativo, anzi io direi che è molto positivo, è la targhetta, il descrittore dell'online, delineato da tre computer in fila, che credo sia positivo. Poi ovviamente ci sono positività e negatività anche nell'online, non vedo niente di sbagliato, ecco. Parlato del PEGI o PEGI, non so, sinceramente, comunque la sigla è inglese, quindi credo sia PEGI, non lo so. C'è una piccolissima curiosità. Ho scovato su un blog, www.tecnocino.it, praticamente un giochino che è un mix tra Tetris e Pong, che credo che se ascoltate questo podcast conosciate sia Tetris che Pong. Appunto, Tetris e Pong. Praticamente è un gioco che racchiude sia le regole di Tetris che di Pong. Praticamente bisogna giocare a Pong, nello stesso tempo giocando anche a Tetris. È un gioco difficile da spiegare, ma vi consiglio di provarlo in ogni caso. Basta scrivere Tetripong, che è il nome del gioco. Basta scriverlo su Google e dovrebbe apparirvi. Ed è davvero molto interessante. Poi vabbè, ovviamente non è grande come file. Beh, io credo di avere parlato davvero tanto perché la gola mi si è abbastanza seccata. Ecco, poi la digestione avviene adesso, scusatemi. Proprio per questo, forse anche per il fatto che volevo tornare al microfono e quindi mi sono lasciato andare tantissimo, senza virgole, senza punti, mi sono buttato subito nel discorso. Allora andiamo con la seconda canzone. Questi artisti sono i Pornophonic. La canzone Lemmings in Love, che ovviamente è sicuramente dedicata al gioco Lemmings, che credo voi conoscano. Ecco, già partita. Pornophonic con Lemmings in Love. E ci sentiamo. Thank you. lovely night. We'll laugh and sing and dance together into the morning light. Comunque aveste mai giocato almeno una volta ad un gioco molto molto famoso, insomma, nel panorama videoludico, soprattutto nintendaro, che si chiama The Legend of Zelda, la leggenda di Zelda. E negli ultimi anni, insomma, in questi ultimi 2 anni, The Legend of Zelda è uscito anche su DS con un titolo che si chiama appunto The Legend of Zelda Phantom Hourglass, e nei prossimi mesi, mi sa che già adesso in Giappone è uscito il seguito sempre su DS di Phantom Hourglass. Per chi di voi non conoscesse comunque Zelda, il gioco di Zelda, io vi consiglio caldamente di reperire una qualsiasi piattaforma Nintendo, dal Wii, anzi dalla dal Game Boy al Wii, se ne avete uno tra Game Boy e Wii, dunque anche GameCube, Nintendo 64, SNES, eccetera. Insomma, vi consiglio di provare anche The Legend of Zelda. Se lo conoscete già, tanto meglio. Appunto, The Legend of Zelda è la prima vittima, diciamo, di quella che è un'altra novità di Nerdcast, oltre alla sigla iniziale, oltre al fatto che la base non c'è più, cioè le parodie. Che cosa sono le parodie? Sono praticamente delle riproposizioni, delle situazioni, dei giochi, dei giochi ovviamente più importanti, più conosciuti, sia recenti che storici. E non raccontati da me, ma dall'unico campionatore di voce free, gratis, che si trova sulla rete, e che praticamente utilizzano tutti i podcaster che utilizzano i campionatori di voce. Dunque, probabilmente riconoscerete la voce del campionatore, la voce digitale, e probabilmente verrà da pensare a qualche altro podcast che lo utilizza. E mi dispiace, ma non è perché voglia copiare, ma non è colpa mia, perché comunque è davvero l'unica soluzione per non pagare. Non perché io non voglia pagare, non perché io sia così tanto tirchio, però non avendo tempo, insomma, volevo organizzarmi bene su questo altro aspetto. E appunto il sintetizzatore vocale ci parlerà di The Legend of Zelda, ovviamente in chiave parodica. E ciò che mi dispiace è che probabilmente coloro che non conoscono il gioco di The Legend of Zelda non ci capiranno molto. Quindi, se proprio volete, potete anche passare avanti, magari di 5-6 minuti, perché dopo si parlerà ovviamente di Giappone. E non lo so, beccatevelo intanto, questa è la sigletta che credo che tutti conosceranno. E buon ascolto. The Legend of Zelda, che tradotto in italiano sarebbe La Leggenda di Zelda, che tradotto in sumero antico sarebbe Sufaraba Kasazistuvak. The Legend of Zelda è uno di quei giochi che vendono anche senza un protagonista super figo e loquace. E vende anche un botto. Alzi la mano chi di voi ha creduto almeno una volta che il nome del protagonista fosse Zelda e che conseguentemente il protagonista avesse avuto un'infanzia difficile. Sì. Alzala anche tu, Nintendaro di vecchia data. Ammetti le tue colpe. La saga iniziò un po' di anni fa, in un mondo parallelo dove la cosa più complicata era formata da 6 pixel. Il personaggio principale, detto anche Folletto col cappello verde, detto anche Link, si ritrova a salvare la principessa Cessa di nome Zelda e a sconfiggere il cattivissimoissimo Ganondorfio. Anche se comunque tutto sembrasse avere la forma di una principessa, Link riesce a riconoscere la principessa Zelda e a sconfiggere Ganondorfio, grazie alla forza che gli proveniva da una voglia alla vaniglia a forma di triangolo. La realtà dei fatti voleva che in realtà Ganondorfio avesse aperto un nuovo ristorante giamaicano e che Zelda fosse stata invitata per l'inaugurazione. Ma Link lo fece andare in rovina e condannò Ganondorfio a qualche anno di barbonaggio. Così, qualche anno dopo, Ganondorfio cercò di prendersi la rivincita sul dannato Folletto, rapendo Zelda per davvero ma lasciandola andare subito, perché si rese conto quanto fosse ancora Cessa nonostante i miglioramenti di grafica. Così Zelda poté tornare da Link, solo che anche il Folletto si rese conto della innaturale bruttezza della principessa. Così Zelda rimase di bella fino a quando il gioco non venne prodotto su Nintendo 64. In quel periodo, Link aveva perso il suo lavoro di lustrascarpe e si era dato al barbonaggio con un'ocarina scadente e stonata. Nel frattempo Ganondorfio aveva riaperto il suo ristorante giamaicano e aveva quasi dimenticato la vendetta sul Folletto Verde. Ma Link, vedendo la principessa Zelda con una grafica migliore, decise di andare a rompere i boxer a Ganondorfio un'altra volta, così da poter attirare l'attenzione di Zelda, che adesso sembrava quasi Jessica Alba. Vabbè, non esageriamo. Comunque, Link riuscì a far fallire il ristorante di Ganondorfio per la seconda volta anche grazie all'ocarina da barbone che aveva comprato, poiché, suonando la Havanvera, era riuscito a diventare più grande di 10 anni e quindi più figo. Ma un protagonista troppo figo è contro la morale della saga di Zelda, così i produttori decisero che Link sarebbe comunque rimasto un folletto brutto per il resto della saga. In ogni caso, qualche anno dopo, un uomo col cappuccio gli ruba l'ocarina da barbone, e Link rimase solo con la sua cavalla. Furono tempi duri per il folletto, perché non aveva più un mezzo per guadagnarsi da vivere, non poteva tagliarsi la barba, e Zelda ormai non lo cagava più. In più, ad ogni seguito della saga, Ganondorfio resuscitava e Link doveva andarlo a bastonare ogni volta. Neanche la nuova grafica su GameCube lo esaltò, poiché diventò ancora più bambino di prima. Anche Zelda diventò bambina, e quindi anche più cessa come nelle origini della saga. In più Ganondorfio era molto più alto, e quello stesso anno era stato premiato con il titolo di boss più ricco di un gioco Nintendo. In più, qualche anno dopo, lo lascia anche la cavalla e viene inspiegabilmente trasformato in un lupo, perdendo ogni possibilità di guadagnarsi l'attenzione di Zelda, che invece stava iniziando ad interessarsi molto ai soldoni di Ganondorfio. I fan ad un certo punto credevano che le armi di Link fossero sempre uguali e stupide. Così i produttori decisero di implementare il rampino, e le vendite si alzarono vertiginosamente. Si vocifera che il prossimo gioco su Wii di Zelda si chiamerà The Legend of Zelda Wii Fit Version. E se fosse davvero così allora Nintendo perderebbe l'unico gioco hardcore che ha, con Metroid e Wii Play. Ok, ammetto di essere stato pagato per dire Wii Play. Che fine. sì, no, comunque... spero abbiate gradito la parodia di The Legend of Zelda, ovviamente riferito a coloro che conoscono il gioco, ma anche a coloro che non lo conoscono. E mi dispiace, insomma, del fatto che il solito campionatore di voce, sempre con la stessa voce. Ma non ci posso fare niente. Mi dispiace, cioè, ci potrei fare qualcosa, in effetti qualche soldino potrei spenderlo, però... diciamo che non sono abbastanza accorto in questo periodo, quindi... spero vi faccia... Vi basta, insomma, il campionatore sempre con la stessa voce. Io in ogni caso mi sto preoccupando seriamente della qualità della voce, perché so che comunque il dannatissimo ronzio c'è sicuramente. E spero di spero che si senta in ogni caso, perché comunque qua ho cambiato anche programma di registrazione, ho cambiato tante cose, quindi non ho avuto neanche tempo di provare, quindi spero che questa prima registrazione sia buona. Buona la prima. E appunto, momento di Giappone. Io in realtà qualche puntata fa mi sono scusato del fatto che non avevo parlato di molto di manga e di anime, e in effetti è così, ma soprattutto adesso mi scuso per un'altra cosa, perché se avete visto la descrizione del podcast su iTunes, anche da qualche altra parte, insomma, avrete visto che come etichetta c'è anche J-Rock. Alcuni di voi probabilmente avranno pensato che quella J fosse stato un errore di battitura, ma no, perché in realtà il podcast parla anche di J-Rock, che sta per Japanese Rock, cioè il rock giapponese. Soltanto che nei primi tre episodi non ne ho parlato assolutamente, per il semplice fatto che ero praticamente convinto di poter trovare della musica podsafe J-Rock, perché da quello che ho visto di artisti podsafe ce ne sono davvero aiosa, davvero una miriade. E in realtà avevo trovato anche qualche sito di musica podsafe J-Rock, ma sono stato talmente fortunato che praticamente un giorno prima della realizzazione del primo episodio è stato chiuso. Quindi mi sono trovato senza musica podsafe J-Rock, che poi era la musica che in realtà volevo passare, oltre a quella che comunque sto passando anche adesso, che è comunque una musica, per carità, stupenda, meravigliosa, però... Insomma, la mia intenzione primaria era parlare anche di J-Rock. Parlare semplicemente dell'argomento Japanese Rock mi sembra un pochino scialbo, insomma. Ecco perché ho deciso, insomma, di immolarmi e chiedere praticamente alle band con un MySpace, alle band ovviamente J-Rock con un MySpace in cui contengono le loro canzoni intere, di potermi dare la possibilità, insomma, di passare le loro canzoni e in ogni caso di far conoscere la loro musica anche in Italia, che ovviamente è quasi completamente sconosciuta, perché i fan italiani ce ne sono moltissimi di J-Rock. E insomma, spero in una risposta positiva. Spero di poter passare già qualche canzone J-Rock nella prossima puntata. Detto questo, comunque vorrei introdurre non proprio appunto musicalmente il J-Rock, però teoricamente che cos'è. Perché si parla di J-Rock e non si parla invece di rock and roll normale? Diciamo che ciò che caratterizza il Japanese rock non è ovviamente soltanto il fatto che sia prodotto in Giappone, vabbè, ma anche il fatto che comunque possiede una storia e uno stile abbastanza originale, abbastanza proprio. Prima cosa di tutto, ciò che ci fa capire che quello che abbiamo davanti a un artista o una band J-Rock è il modo in cui praticamente si veste, perché gli artisti, la maggior parte degli artisti J-Rock, se non proprio giapponesi, che fanno appunto rock and roll e varie sfumature, utilizzano un modo di vestirsi appartenente ad un movimento chiamato, almeno in Giappone, Visual Kei. Appunto, fatto dalle parole visual, una parola inglese che è visuale, appunto visione, e kei, che invece è una parola giapponese che dovrebbe essere proprio stile, insomma. Dunque, stile stile di visuale, in un certo senso, perché è proprio ciò che cattura a prima vista di un musicista J-Rock, è proprio il suo stile. Ciò che ha di interessante questo stile è, insomma, alla fine è come vedere un protagonista di un manga, di un anime, che suona rock and roll. E le prime impressioni, quando si vede per la prima volta, quando si guarda per la prima volta un video rock, appunto di J-Rock, con band Visual Kei, si rimane abbastanza... non lo so, non saprei descrivere. Comunque io sono rimasto meravigliato, perché essendo io amante, insomma, di anime e manga, essendo io amante anche di rock and roll, tutte le sfumature di rock and roll, insomma, mi ha fatto molto piacere vedere, insomma, le due cose mischiate insieme, amalgamate. E appunto per questo io vi consiglio, prima cosa di tutto, di andare a cercare qualche video di qualche band Visual Kei su YouTube. Ce ne sono una miriade, quelle che vi consiglio, perché sono anche quelle più famose, sono di andare a cercare i Diren Grey, o i Gazette, o Gackt, o Miyavi. Sono tutte, diciamo, band o musicisti J-Rock che poi scriverò alla fine dell'episodio, cioè alla descrizione dell'episodio. E poi magari fatemi sapere anche cosa ne pensate, scrivendo ai miei contatti, che non sono tantissimi, però sono molto accessibili, quindi non avete scuse. E sono appunto l'email, che è nerdocast@gmail.com, con una O in mezzo a nerd e cast, dunque nerdocast. E oppure su Twitter, sotto il nome di NerdFaz, ovvero NerdFAZ, per essere così chiari, oppure cercando Nerdcast, mi pare dovreste trovarlo. In ogni caso, l'avatar, diciamo, è in sfondo blu con un cuoricino e scritto Nerd. Oppure c'è anche su Facebook il gruppo Nerdcast, ma io, non essendo un grandissimo amante di Facebook, sinceramente non so neanche quanti iscritti ci sono. Credo anche nessuno, non lo so. Però vabbè, è sempre l'ho aggiunto come fonte di riferimento, come insomma, pubblicità. Potete trovare Nerdcast anche sul portale di tutti i podcast italiani, che è gump.it. Su ovviamente abbonarsi sul feed RSS. E niente, questo tutto questo. Ah sì, beh, il sito, che più che altro è anche un blog, che è www.podomatic.nerdocast, come l'email.com. E insomma, non lo so, scrivetemi, commentate, ditemi un po' anche cosa ne pensate della musica J-Rock, perché è un argomento che mi sta molto a cuore, essendo insomma sia il Giappone che il rock qualcosa di uno dei miei interessamenti, ecco. Quindi anche se siete degli amanti di rock and roll, sono sicuro al 100% che resterete piacevolmente sorpresi anche dalla musica, dallo stile rockeggiante giapponese. E ciò che poi ovviamente diversifica il J-Rock non è soltanto il Visual Kei, ma è anche il fatto di diciamo saper utilizzare una sorta sentimento oscuro, ecco, chiamiamolo così, all'interno dei testi, perché andando a cercare la traduzione di tutti i testi giapponesi non si capisce bene che tipo di messaggio vogliono mandare i musicisti giapponesi. Dunque utilizzano una sorta di allegoria molto diciamo molto intrigante, cioè almeno io personalmente vedo i testi allegorici delle canzoni molto più intriganti di quelli che invece sono con un senso subito, che vanno al dunque. A me personalmente piace proprio andare a scoprire le varie canzoni, andare a capire cosa si cela dentro quella frase, eccetera, cioè comunque qualcosa che mi interessa. Poi ovviamente il J-Rock non deve essere inteso come un rock and roll degli anni, per esempio degli anni 60 o 70 o 80, insomma quel rock and roll americaneggiante, ma più che altro il J-Rock è un misto di heavy metal, blues, sì anche rock and roll degli anni 80, ma misto tutto questo con sfumature di punk, di hardcore, di tantissime altre cose. Tutto questo racchiuso in una unica canzone, perché le canzoni J-Rock insomma sono molto variegate. Alcune possono durare davvero tanto, 7-8 minuti, e in ogni caso essere comunque varie, non seccare. In più, cioè, è una cosa che ho notato io, ma forse è una cosa stupida e inutile, cioè, forse è dato dal fatto che, magari è proprio per la voce dei giapponesi, ho notato che i cantanti proprio giapponesi, non soltanto del J-Rock, hanno un modo di cantare più, non lo so, è diverso, non riesco bene a spiegare bene che tipo di diversità c'è. Quindi anche per questo andate a ascoltarvi qualche artista J-Rock e poi ditemi se questa impressione è data anche a voi, cioè l'impressione che gli artisti J-Rock insomma abbiano una voce giapponese, alla fine non proprio J-Rock, abbiano una voce abbastanza diversa dai rockettari normali, quei rockettari con la barba che vediamo, perché questi comunque non vi aspettate di trovare quei super rockettari borchiati, ma più che altro dei costumi abbastanza intriganti, abbastanza interessanti, che ovviamente fanno di scena, cioè non bisogna giudicare la band solo per ciò che i componenti indossano, però contribuisce, vi assicuro che contribuisce. E va bene, prima di passare all'altra canzone, parlo di un altro piccolo argomento del Giappone, che sono più che altro, è un argomento che racchiude, che tratta un dei componimenti poetici, ecco, la poesia giapponese. E voglio parlare appunto di haiku. L'haiku scusate, è un componimento appunto poetico di tre versi, praticamente di tre versi, quindi è molto molto breve, ovviamente tipico del Giappone. Sto cercando il significato della parola haiku, ma non lo trovo. L'avevo trovato prima, vabbè. In ogni caso, l'haiku è... oppure haiku, credo sia haiku, o comunque in ogni caso... perdonatemi per la pronuncia non prettamente giapponese. Dirò haiku da questo momento in poi. Ecco, appunto, l'haiku, come ho detto, è un componimento poetico di tre versi, fatto semplicemente di tre versi molto brevi. È la funzione principale, cioè ciò che caratterizza l'haiku nella sua semplicità, è il fatto di saper descrivere in questi tre versi tutto ciò che si descriverebbe in una poesia con, diciamo, in decasillabi sciolti, quindi anche lunghissima. Diciamo che l'haiku ha come particolarità il fatto di doversi per forza, comunque quello tradizionale giapponese ha la caratteristica di riferirsi ad un periodo di una stagione giapponese, dunque qualunque dei periodi delle stagioni. E soprattutto un'altra cosa dell'haiku, un'altra caratteristica dell'haiku, è saper rappresentare di getto, subito e brevemente, ciò che si prova in quel momento mentre si scrive. E ovviamente coloro appassionati di poesia, che possono capire meglio e anche più facilmente, insomma, più velocemente cosa veramente un poeta vuole comunicare tramite i versi, troverà sicuramente l'haiku come un esempio di poesia, seppur breve, comunque molto... io almeno l'ho trovato molto toccante, molto interessante. I primi haiku che vedo, che sono andato a cercare su Wikipedia, sono haiku, diciamo, classici, e proprio per darvi l'idea ve ne leggo qualcuno. Allora, questo haiku è di Matsuo Basho. Nel vecchio stagno una rana si tuffa. Rumore d'acqua. Finito. Questo è l'haiku, non so se ha creato ilarità, ma in ogni caso è qualcosa che in un primo momento può anche sembrare senza significato, perché ovviamente le immagini che vengono trasmesse sono subito... sono lette subito, insomma, e non lasciano spazio ad una immaginazione, ad un'altra immaginazione di quello che invece si legge. Dunque, se io leggo una rana si tuffa, non posso mica andare a pensare subito a qualcos'altra cosa, perché la frase è composta semplicemente da queste quattro parole, e subito dopo è seguita da un punto, quindi è semplicemente l'immagine di una rana che si tuffa. Oppure un altro esempio di haiku, di Kobayashi Issa. In questo mondo anche la vita della farfalla è frenetica. Punto. Dunque, ovviamente, a stare a dirle io che non sono sicuramente un poeta, non rende. Quindi vi consiglio, come nel caso del J-Rock, di andare a vedere anche questo aspetto, cioè anche l'haiku giapponese, perché è uno stile poetico, oltre che essere ovviamente caratteristico del Giappone, anche abbastanza filosofico, interessante, che nonostante sia così breve comunque porta a pensare. Perciò appunto io vi consiglio di scrivere haiku, HAIKU, su Google e di cercare qualche esempio di haiku, perché, come ho detto, appunto, sono molto interessanti. Bene, detto questo, proprio per restare in tema, sono andato a cercare una canzone, cioè ho trovato una canzone che ha proprio lo stesso titolo, haiku, degli Amity Infame, che vi consiglio caldamente. Sono una band austriaca, se non sbaglio, molto bravi, sì. Fanno un rock comunque molto semplice. Alla fine nessun tipo di rock abbastanza difficile come quello del J-Rock. E questi appunto sono gli Amity in Fame con eccoli a voi. Buon ascolto. Can't you see? See the real? Allora, abbiamo sforato l'ora. E quando sforo l'ora devo andare subito veloce perché sono dell'idea che un podcast debba essere abbastanza contenuto, ecco. Cioè, dopo un'ora bisogna subito cercare di chiudere perché sennò diventa troppo lungo e magari nel frattempo escono già nuovi podcast da ascoltare, quindi ancora stiamo ascoltando questo. È un casino, lo so perché sono un ascoltatore di molti podcast. Allora, cosa c'è da dire? Assisi. Beh, no, non Assisi la città. No, vabbè, lasciamo perdere. Sì, stavo pensando, riguardando un attimo il sito che vi dicevo prima, che siamo ad ottobre e per i videogamer assidui, insomma, un po' più preparati, ormai è praticamente iniziato il periodo dei giochi più fighi dell'anno, perché ci sono praticamente due periodi dell'anno in cui i giochi migliori, quelli più attesi da sempre, quelli più pubblicizzati, escono tutti in un mese, nel giro di 1 o 2 mesi escono tutti quanti, e questo per me personalmente è una cosa orribile, terribile, che odio, perché non, cioè, volendo almeno 5-6 giochi in un mese, posso permettermene massimo, massimo, massimo 2, ma se va bene. Quindi è una cosa che mi fa davvero arrabbiare perché ovviamente le strategie di marketing degli sviluppatori impongono in un certo senso l'uscita verso Natale di questi giochi. E ovviamente, cioè, vengono fatti uscire subito dopo la seconda settimana di ottobre, subito a palate. E succede praticamente ogni anno. È successo anche quest'anno, stanno per uscire praticamente tanti di quei giochi stupendi, incredibili, nonostante comunque la maggior parte di questi, dei più attesi, sono stati rimandati in primavera, che poi praticamente è il secondo periodo dove fanno uscire tutti questi giochi in una botta sola. E io non so davvero che cosa scegliere perché, anzi, adesso non. Cioè, mi trovo davanti alla bruttissima decisione di dover scaricare un gioco per poterne comprare un altro, visto che comunque i fondi monetari sono quel che sono. E insomma, la cosa mi fa abbastanza incazzare, anche perché io non voglio essere un pirata, ecco, sia dei giochi console che del PC, però a volte, insomma, sembra che le stesse case produttrici se le cerchino certe cose, ecco, per non essere proprio esplicito. Un'altra cosa a cui pensavo, che sto vedendo praticamente adesso, è il fatto che Street Fighter 4, uscito a febbraio 2009, quindi qualche mese fa, sarà riproposto di nuovo, sarà fatto uscire di nuovo al prezzo pieno di 60 euro, sia per PC che per Xbox che per PS3, di nuovo praticamente, con l'aggiunta di quattro nuovi personaggi, se non sbaglio. Quattro nuovi personaggi, quindi quattro nuove modalità storia. E quattro nuove storie, diciamo, quattro nuovi personaggi con cui giocare online. Per il resto, il gioco è completamente identico, uguale a quello che è uscito qualche mese fa, a febbraio. È identico e lo ripropongono praticamente, anche se il gioco è diventato Platinum, lo ripropongono al prezzo intero, forse anche di più, e non come un contenuto scaricabile che magari avrebbe venduto anche di più. Io, essendo un fan della serie, ovviamente non comprerò comunque questo gioco perché mi dispiace, ma non potrò giocare con i nuovi personaggi che ci sono. Tra cui c'è anche DJ, che è uno dei miei preferiti, ma comunque, lasciando perdere questo, non potrò giocare con i quattro nuovi personaggi, non ave comunque avendo il gioco, perché viene riproposto con quattro personaggi in più. E questa è sempre ovviamente un'operazione di marketing abbastanza seccante, perché insomma io adesso non avrò la possibilità, o meglio avrò la possibilità però sicuramente meschina, di giocare il gioco con quattro personaggi in più, che invece non sono stati resi scaricabili. Scaricabili per non so quale motivo. Ovviamente il motivo, anzi lo sappiamo tutti, è il motivo di marketing che Capcom ha già utilizzato qualche tempo fa con Resident Evil 5, facendo uscire questa volta come contenuto scaricabile una settimana dopo il gioco praticamente il Time Attack, se non sbaglio, il Time Attack integrabile in Resident Evil 5, scaricabile a 10€ o una cifra del genere, comunque pazzesca, perché praticamente era un sesto del gioco completo, cioè facevano pagare un sesto del gioco completo per una feature che alla fine era un semplicissimo Time Attack e che soprattutto era stato fatto uscire una settimana, comunque qualche giorno dopo il gioco stesso, facendo comunque presagire che Capcom l'avesse già in serbo, praticamente l'avesse già creato una modalità di Time Attack prima dell'uscita del gioco, che non ha voluto integrare per guadagnare sicuramente quei 10 euro in più che comunque gli fanno comodo, ecco, diciamo questo. Il sito che stavo guardando prima, che volevo dirvi e volevo appunto consigliarvi, è più che altro una produzione. Parlo di Metal Gear Solid Philanthropy. Per chi conoscerà appunto il gioco Metal Gear Solid, praticamente Metal Gear Solid Philanthropy è diciamo un film ispirato appunto, che riprende le tematiche, riprende anche i personaggi, praticamente tratta proprio del gioco di Metal Gear Solid, della saga di Metal Gear Solid, è un vero e proprio film, diciamo, perché dura 1:10 più o meno, 1:15, parlato in inglese con i sottotitoli disponibili in qualsiasi lingua, quindi anche in italiano. Dunque io parlo ovviamente soprattutto ai fan, ma non solo, di andare a visitare il sito appunto di Metal Gear Solid Philanthropy, che adesso ecco, che è www.mgs-philanthropy, scritto ph, .net, e troverete insomma il link subito direttamente per scaricare il video, il film, ecco, diciamo, di Metal Gear Solid Philanthropy, che io ho visto ed è fatto davvero davvero davvero davvero molto bene, ed è anche un film insomma gratis, quindi non vi lamentate, potete andarlo a scaricare senza alcun problema. E quindi questo. E poi, prima dell'ultima canzone, volevo fare una piccola nota, perché praticamente dall'ultimo episodio di Nerdcast, con questo non voglio dire niente, però ecco, dalla fine dell'ultimo episodio di Nerdcast, ecco, orientativamente, mi sono reso conto che i podcast dedicati ai videogiochi, completamente ai videogiochi e non parzialmente come appunto Nerdcast, sono davvero aumentati, ce ne sono almeno 4 che seguo regolarmente, e mi ricordo quando ho iniziato ad ascoltare il podcast di Ringcast, che è appunto uno di questi 4, che pregavo affinché insomma qualche altro podcaster più grande, più esperto di me potesse fare un podcast di videogiochi simile e serio, insomma. E pian piano, insomma, ne sono venuti fuori. Adesso siamo a 4. Questi 4 podcast, giusto per fare un po' di propaganda, che non fa mai male, sono appunto Ringcast, il podcast di Multiplayer.it, che ha anche un video podcast. Poi ci sono i nuovi 2 podcast praticamente usciti nell'ultimo mese, che sono Il Tentacolo Viola e Gaming Effect. E beh, vabbè, no, ma ci sarebbe anche Nerdcast, ma Nerdcast è più che altro è un podcast che tratta di videogames, però visti più che altro da come li vedo personalmente, cioè alla fine la visione dei gamers in generale, o almeno quello che spero di rappresentare. Quindi non parla strettamente del mondo videoludico in ogni suo aspetto. Diciamo che ovviamente cerco di spaziare tra i vari argomenti del videogaming, ma non mi soffermo su non sempre sulle notizie della settimana, e ci faccio digressioni lunghe che magari dovrebbero fare e fanno questi podcast fatti da persone con sicuramente più esperienza alle spalle di me. Oltre questo, cosa c'è altro da dire? Non lo so. Siamo ad un'oretta e un quarto più o meno. Io adesso credo che metterò l'ultima canzone. Editerò e spero di mettere il podcast online sul feed per stasera. O se no domani, vabbè. Spero ovviamente anche, ecco, di ricevere delle email, che comunque ripeto i contatti dopo, ecco. Che altro? Ah sì, beh, finito questa registrazione andrò a riascoltare. Ad ascoltare, anzi, qualche podcast uscito, come per esempio la puntata di Digitalia, che ancora non ho ascoltato e non ho ascoltato domenica. E per il resto questo, ecco. Ma poi magari un'ultimissima cosa è riferita a tutti i podcaster che questo mi diverte molto, è l'ultima canzone che ho portato sopra, ed è Bezerg, che si chiama Revolution. i BZ con Revolution. Bene, questa è davvero la fine di Nerdcast, episodio numero 4. Sto pensando che è incredibile, sono riuscito a registrare anche il quarto episodio. Credevo di non riuscire a farcela dopo tutte le difficoltà che ho avuto per varie cose, non solo per Nerdcast. Prima di lasciarvi, ripeto i contatti, l'email, se volete scrivermi, è nerdocast, con una O tra nerd e cast, @gmail.com. Su Twitter sono nerdfaz, F-A-Z, c'è anche il gruppo su Facebook. Che altro? Ah sì, il sito, il blog, che me lo dimentico sempre, che è www.podomatic.nerdocast.com, dove metterò la puntata, credo che arriverà prima del feed, ecco. E basta, ecco, finiamola qui. E, arrivederci, spero, a fra 2 settimane, spero, perché poi fra... Diciamo fra 4 settimane sarò anch'io a Lucca Comics per incontrare qualche altro podcaster, spero, così da finalmente incontrarvi. E detto questo, basta, ecco. Quindi alla prossima, a Nerdcast episodio numero 5, e statemi bene. Ciao ciao.